inizio. Il grande reset. Ah, belli di casa, bentornati a questo nuovo appuntamento con il grande reset, che come avete capito, insomma, è la prosecuzione di una puntata che non c'è stata, ossia quella di venerdì scorso, perché praticamente smanetta di qua, cambiar disc di là, sposta il cavetto, aggiungi, metti la spina e roba del genere, succede che a un certo punto, così come se niente fosse, il database con il quale ovviamente il programma di regia fa riferimento, non ci ho capito più niente, perché ha detto: ma dove sta? Io so che ci sono tutte queste cose qui, ma non le vedo, non le trovo, dove sono? Sono su un'altra lettera, perché l'hard disk di riferimento, appunto, invece di essere l'H è diventata la J, e quello non se l'è più trovato. Ci sono dei sistemi per farglielo ricapire. Non è che l'ha capito un granché, quindi alla fine, nonostante tutti i miei tentativi, mi toccherà risettare tutto un'altra volta da capo. E potrebbe anche essere l'occasione per sperimentare nuovi programmi di regia radiofonica, che insomma alla fine comunque in qualche maniera, lo sapete, a differenza della filosofia di Walter Sbano, che condivido tutto sommato e penso che sia professionalmente la più adeguata, cioè quella non tocca niente quando le cose funzionano, io devo toccare, devo fare, devo smanettare, devo fare in modo che le cose, insomma, siano come... Le voglio sperimentare cose nuove ogni volta, se no mi annoio, vedete sempre le stesse cose, nello stesso modo. Dato che, appunto, come sapete, questo non è un lavoro, non è una professione per noi, ma è semplicemente una passione con la quale ci piace, insomma, stare insieme a voi, condividere i nostri pensieri, insomma, le nostre opinioni, e soprattutto comunque fare un po' intrattenimento, stare con voi, farvi compagnia in qualche maniera, allora dobbiamo renderlo sempre più appassionante. Io mi appassiono quando provo cose nuove, se ci stanno, perché mi è detto che ci siano cose nuove, le sperimenteremo, lo vedremo nei prossimi giorni. Ma di cose nuove noi ne stiamo presentando tante, forse già ve l'ho detto nelle puntate precedenti del Grande Reset, ma sapete che io non mi ricordo niente. C'è Walter Sbano, che per ora, in attesa del ritorno delle orazioni della sera, tutte le domeniche alle ore 17, per un'ora e mezza, chiacchiere e musica con il suo prova microfono, che è un po' una sorta di idea anche carina che gli è venuta, dato che insomma anche lui ha aggiornato il suo hardware microfonico, ha voluto vedere insomma come va. Ovviamente, quando parli dei microfoni della Rode, parli insomma di qualità, e la qualità si sente, non che prima non ci fosse, ma chiaramente ha dato la possibilità al mixer, ai processori Apex, ai compressori, agli equalizzatori, di avere poi comunque una fonte di partenza molto più calda, molto più pastosa, molto più profonda, grazie a un microfono che sostituisce quello che aveva, che ovviamente faceva il suo dovere, ma non era chiaramente al livello, insomma, di questi microfoni nuovi. Mentre sapete che è uscito Armonia, il podcast di Cristian Spaccapaniccia, che è questo podcast che fa monografie musicali, però invece di fare la solita monografia musicale sui vari personaggi della storia della musica, usa una strategia diversa, una cosa secondo me anche interessante, che è quella di abbinare al racconto musicale e storico di un determinato personaggio musicale. Ad esempio, la prima puntata c'era Billie Holiday, abbinare ovviamente questa cosa a un racconto sci-fi, cyberpunk, un po' particolare, che è un po' lo stile di riferimento di Cristian Spaccapaniccia. Se andate sui siti Feltrinelli, insomma, dove comprate i libri, cercate Tubo N403, è il romanzo di Cristian Spaccapaniccia, tra appunto un futuro premonitore quasi e una versione di Roma cyberpunk molto interessante. Noi ci provammo a fare un film tantissimi anni fa, ne abbiamo raccontata questa storia, E poi è uscito il progetto Falce e Macello, che è appunto questo progetto mio e di Christian, quindi lo trovate falceemacello.it, dove ogni tanto faremo uscire un nuovo brano del primo EP, cioè noi faremo un EP fatto di 5-6 brani che cercheremo ovviamente di spingere, ma al di là della questione musicale, che come sapete è generata con l'intelligenza artificiale dal punto di vista musicale, anche se dietro c'è un lavoro importante, c'è una costruzione dal punto di vista del testo ovviamente di un livello superiore rispetto alla media, c'è proprio un progetto, c'è un pensiero dietro a questo progetto di Falce e Macello, appunto, che è un progetto politico, poi un progetto anche ideologico se vogliamo, però fatto in una certa maniera. Andate su falcemacello.it, c'è la sintesi del manifesto, ma c'è anche il manifesto integrale, secondo me lo troverete sicuramente interessante. Questa sera vi ricordo che c'è un nuovo appuntamento con Runtime by Night, la prima puntata con l'ospite in studio, perché quest'anno, come sapete, ci alterniamo, no? Tra puntata standard con gli amici in conferenza e una puntata con un ospite fisso in studio, con il quale ovviamente faremo chiacchiere e saremo più concentrati, chiaramente. Quindi questa sera quella buca nel deserto non ve lo perdete, perché secondo me sarà una puntata interessante. C'è un altro progetto che stiamo facendo partire, anche concettualmente è già partito, infatti ieri è uscita la puntata introduttiva. Io lo so che voi odiate l'intelligenza artificiale, ragazzi, lo so e lo capisco, però voi dovete sempre considerare che questi, allo stato attuale, fino a che ne abbiamo la possibilità, sono strumenti messi a disposizione e per essere utilizzati con creatività. Cioè, se voi prendete l'intelligenza artificiale e fate quello che fanno tutti, allora è inutile. Se invece, dato che c'è, comunque la sfruttate per fare delle cose creative, secondo me è un plus da questo punto di vista, è un qualcosa che alla fine comunque c'è, la utilizzi. E quindi la nostra idea, che era un'idea che avevamo già da molto tempo, è quella di far partire un ennesimo nuovo podcast. Vi avevamo detto che quest'anno ci sarebbero state grandi novità, e il podcast si chiama Tra le righe, la biblioteca parlante. È un progetto che prende ispirazione ad alta voce della RAI, dove ovviamente si leggevano libri, agli audioromanzi, insomma, della RAI di un tempo, anche se qui il concetto è più di riportare degli audiolibri in podcast, audiolibri presi da prodotti anche vostri, cioè nel senso comunque di autori indipendenti, persone che già scrivono racconti, storie, libri e via dicendo, e li riportano ovviamente in formato ebook, o li distribuiscono o addirittura li pubblicano. Ecco, diciamo che questa è la nostra intenzione, quella di dare un po' spazio anche alle nostre opere, alle vostre opere. Ma adesso fra poco vi faccio sentire l'episodio zero, ve lo faccio sentire proprio a coda di questo mio intervento, tanto dura 7 minuti, quindi insomma alla fine è una cosa che potete ascoltare, vi dà la possibilità di spiegare bene che cos'è questo nuovo progetto. Quindi considerate che da fra 10 giorni uscirà il primo racconto, che è un racconto di Kayla Dahmer, di cui poi ovviamente parleremo successivamente, magari anche con lei intervistandola, che praticamente sarà un racconto molto interessante. Quindi saranno degli audiolibri letti dall'intelligenza artificiale, ovviamente, ma di intelligenza artificiale c'è solo quello, quindi finisce là un po' il discorso, parte degli speaker ovviamente e tutto quello che dice, ma come avreste potuto farlo voi? Sì, ma leggere dei racconti non è facile, per quanto uno possa avere anche una buona voce e tutto quanto, saper leggere è un'altra cosa. L'unico in Runtime Radio che sapeva leggere era Leo Vargion, anzi è Leo Vargion, però non è che si può chiedere a Leo Vargion di leggere tutto per tutti, insomma, anche perché per lui, da quando lui si è messo su Fiverr, è diventata anche una pseudo seconda professione. Comunque lui mette a disposizione le sue capacità a disposizione di chi ha bisogno magari dell'uso della voce, quindi giustamente non è che noi, per quanto poi sia parte integrante del nostro progetto, tra l'altro sta per tornare Leo Vargion, noi ve lo dico subito, così almeno anche qui siete tutti abbastanza contenti, perché me lo chiedevate quando torna Leo. Però ecco, appunto, diciamo che per quanto sia parte integrante non è che si può sfruttare come un minatore, insomma, questa cosa, anche perché leggere dei racconti, leggere dei romanzi brevi, leggere dei raccolti di poesia non è poi così agevole, insomma, ci vuole tempo e impegno. Cioè abbiamo l'intelligenza artificiale, la utilizziamo e via dicendo. Comunque, vabbè, sapete che di progetti ce ne sono tanti, ne usciranno altri, altre idee e altre questioni. Comunque già questo inizio, diciamo, di stagione vi abbiamo proposto delle cose nuove e altre arriveranno, e spero che questo vi faccia contenti. Vi lascio con l'episodio 0 di Tra le righe, che dura veramente poco, così vi spiega bene anche come poter contribuire a questo tipo di progetto, ok? Allora, a tra poco. Runtime Radio presenta un'idea di Simone Pizzi. Tra le righe. La biblioteca parlante. Libri, romanzi, racconti, saggi, poesie, novelle, narrativa di ogni genere, in formato podcast. Ogni 15 giorni disponibile un nuovo episodio nella sezione podcast del sito runtimeradio.it. Ciao a tutti, carissimi ascoltatori. Benvenuti in questo magico momento che segna l'inizio di una nuova avventura. Sono Renti e oggi ho il piacere di presentarvi Tra le righe, la biblioteca parlante, il nuovissimo podcast e trasmissione radiofonica di Runtime Radio, la vostra radio geek di fiducia. Sapete, c'è qualcosa di profondamente magico nelle parole quando prendono vita attraverso la voce umana. Qualcosa che va oltre la semplice lettura silenziosa, che trasforma ogni frase in un'esperienza sensoriale, ogni dialogo in un piccolo teatro dell'anima. Questo nostro ennesimo progetto, e dico ennesimo con orgoglio, perché ogni nuova produzione rappresenta un passo avanti nel nostro viaggio creativo, si inserisce perfettamente nella nuova rotta artistica che Runtime Radio ha intrapreso. Una rotta fatta di idee fresche, di creatività senza confini e soprattutto di narrativa in tutte le sue forme più belle e affascinanti. I più navigati tra voi, quelli che hanno qualche capello grigio in più come il sottoscritto, si ricorderanno sicuramente degli indimenticabili sceneggiati radiofonici della RAI, quelle produzioni che ci facevano sognare davanti alla radio, con gli occhi chiusi e la fantasia che correva libera. Se ci pensate bene, cosa erano se non audiolibri ante litteram, magistralmente interpretati da quei giganti del doppiaggio italiano che non ho fatto la storia? Ed è proprio da lì che nasce l'ispirazione per Tra le righe. Prendiamo molto spunto dal capolavoro che è Ad alta voce, un programma che ha saputo restituire dignità e fascino all'arte della lettura ad alta voce. Ma noi vogliamo fare un passo oltre. Il nostro obiettivo è ambizioso quanto entusiasmante. Vogliamo creare una vera e propria biblioteca sonora, raccogliendo racconti che spaziano dalle storie brevi ai grandi romanzi, dalle raccolte di racconti ai cicli poetici, dalle singole perle narrative alle saghe più articolate. Tutto questo trasformato in podcast e audiolibro da distribuire, e qui sta la bellezza del progetto, completamente gratis, per tutti, senza barriere, senza confini geografici o economici. Ma c'è dell'altro. E questa è forse la parte che mi entusiasma di più. Uno dei motivi principali che ci ha spinti a creare Tra le righe è il desiderio di dare voce, letteralmente, a quegli autori indipendenti coraggiosi che hanno scelto la strada dell'autopubblicazione. A tutti quelli che hanno storie da raccontare, talento da condividere, ma che magari non hanno ancora trovato la porta giusta nel mondo editoriale tradizionale. Quindi, cari scrittori, cari sognatori di parole, cari tessitori di storie, le nostre porte sono spalancate per voi. Se avete un manoscritto nel cazzetto, se avete una storia che vi frulla in testa da tempo, se sentite di avere qualcosa di speciale da condividere con il mondo, non esitate a scriverci all'indirizzo runtimeradio@gmail.com. Naturalmente, e qui dobbiamo essere onesti e trasparenti, faremo una selezione attenta e rispettosa per garantire la qualità che i nostri ascoltatori meritano. Ma vi assicuro che daremo spazio a tutti i talenti autentici che busseranno alla nostra porta. E i generi? Ah, questa è la parte più bella. Non esistono preclusioni, non esistono steccati. Tra le righe è un contenitore infinito che può accogliere un racconto intimista sussurrato con delicatezza, un romanzo di fantascienza che ci porterà tra le stelle, una raccolta di storie fantasy che ci farà sognare mondi impossibili, un giallo che terrà col fiato sospeso, un horror che farà correre brividi lungo la schiena. Ma non solo narrativa. Anche opere più documentaristiche, saggi coinvolgenti, testimonianze che hanno qualcosa di importante da dirci. E naturalmente la poesia. Ah, la poesia, quella forma d'arte che riesce a condensare universi interi in poche righe perfette. Per le raccolte poetiche chiediamo almeno 10 componimenti per poter creare episodi che rendano giustizia alla ricchezza del genere. Ma ora veniamo al sodo. Come potrete seguire Tra le righe? È semplicissimo e abbiamo pensato a tutti i modi possibili per raggiungervi ovunque siate. Prima di tutto, seguite il nostro canale Telegram ufficiale di Runtime Radio. Lo trovate all'indirizzo t.me/runtimeradio, dove riceverete tutte le novità in tempo reale. E già che ci siete, unitevi anche alla nostra chat pubblica su t.me/dirette runtime, dove potrete chiacchierare con altri appassionati e con noi dello staff. Naturalmente il posto d'onore spetta sempre ai nostri siti ufficiali, runtimeradio.it e runtimeradio.com, la vostra casa digitale per tutto ciò che riguarda le nostre produzioni. E infine il luogo dove da sempre vivono e respirano tutti i nostri podcast, la piattaforma Spreaker. Basta andare su spreaker.com, digitare Tra le righe nella barra di ricerca e troverete questo gioiellino tutto per voi. Sapete cosa? Mentre vi parlo, mentre condivido con voi questo nuovo sogno che stiamo per realizzare insieme, non posso fare a meno di pensare a tutte le storie che ci aspettano, alle voci che daremo vita, ai mondi che esploreremo, alle emozioni che condivideremo. Perché alla fine, cari ascoltatori, Tra le righe non è solo un podcast, è un viaggio che faremo insieme, pagina dopo pagina, parola dopo parola, attraverso l'infinito universo della narrativa umana. Un viaggio dove ogni storia raccontata diventa un ponte tra chi scrive e chi ascolta, tra chi sogna e chi si lascia sognare. Quindi preparatevi. Preparate le vostre cuffie migliori, trovate la poltrona più comoda, createvi il vostro angolo perfetto per ascoltare. Perché tra poco, molto presto, le prime storie prenderanno vita nelle vostre orecchie e nei vostri cuori. La biblioteca parlante sta per aprire i suoi battenti e voi... siete i nostri ospiti d'onore. Benvenuti a Tra le righe. La magia sta per iniziare. Avete ascoltato Tra le righe, la biblioteca parlante. Ogni 15 giorni un nuovo episodio nella sezione podcast di runtimeradio.it. Invia le tue opere a runtimeradio@gmail.com. Libri, romanzi, racconti, saggi, poesie, novelle, narrativa di ogni genere in formato podcast. Potresti ascoltare la tua storia nel nostro podcast? Thank you. Bene, bene, immagino che questa non sia una canzone, ma una base musicale, quindi alla fine sono rimasto un po' così, un po' basito da questa cosa, perché dico, vabbè, dopo parte la canzone risparmio un po' di fiato, anche perché questa mattina devo dire che forse questa notte ho sentito un po' freddino e quindi mi sono svegliato con il mal di gola e tutti dicono, ma Pizzi, ma sei una merdaccia, t'ammali sempre. Avete ragione, ma in realtà non è che mi ammalo sempre, è la compensazione dell'universo. Voi dovete considerare che fino a 35-40 anni io non mi ammalavo mai, ero proprio, cioè, zero, era proprio difficile che mi ammalavo. E questa cosa evidentemente comunque in qualche modo, non lo so, insomma, cosa possa aver scatenato, diciamo, nella mia prosecuzione. È vero che poi c'è stata una parte della mia vita in cui io ho dedicato tanta abnegazione all'autodistruzione, perché io sono qui tante volte e faccio tante elucubrazioni, tante chiacchiere, cerco di esortare la gente alla positività, all'autocrescita, senza dover fare le cose automotivazionali, tipo i corsi in cassetta, in 14 cassette a 999 euro l'una in cassetta, perché una volta si utilizzavano le cassette per queste cose, non so se ve lo ricordate. E praticamente perché comunque io ho attraversato tantissime fasi della mia vita, tante, e una volta ne parlavo con una mia amica Flavia, che saluto, una persona che non vedo da 20 anni, penso, oramai. E alla fine, in quelle volte, insomma, in cui magari ci trovavamo a fare un po' un excursus di certi percorsi della mia vita, è come se io avessi vissuto praticamente la vita non a compartimenti stagni, ma a capitoli. Credo che sia una cosa che sia capitata a tanti come tipo di discorso, che non è una cosa così straordinaria, no? Nel senso, però è sempre stato una mia prerogativa quella di affrontare un percorso nella mia vita con sempre grande, profonda intensità in generale, forse anche magari con poco equilibrio magari su certe cose, poi distruggere quella parte magari della vita e ricostruire tutto da zero. E questo mi è capitato diverse volte nel mio percorso, nel mio cammino di evoluzione. È un cammino che è anche motivato da tanti motivi, tanti fattori, tante storie, che sono poi alla fine il percorso dal quando sono nato e come sono nato e come sono cresciuto, quello che è successo nel frattempo, cosa ho perso per strada, cosa ho rifiutato e cosa poi ho accettato. Tutti quei percorsi che fanno parte della vita di ognuno di noi, che però poi alla fine comunque in qualche maniera influenzeranno il nostro futuro, no? Quello che poi oggi è praticamente una sorta di presente, che per me oggi è il presente, sì, ma in realtà poi alla fine è stato il passato, o quando il futuro poi diventa presente, nel momento in cui appunto diventa attimo stesso, no? Questo è un discorso un po' contorto, che non so che cazzo sto dicendo, però c'ha senso tutto sommato. E allora questa cosa mi ha fatto riflettere proprio stamattina, quando mi sono svegliato col mal di gola, ho detto, certo, una volta, però è vero pure che, appunto, come ho detto, io ho passato un periodo della mia vita che è stato un periodo di rifiuto e di rabbia, più rabbia anche di rancore, posso dire, di rancore. Non dico odio, perché forse odio è una parola forte, però di rabbia e di rancore sicuramente. E questa rabbia e questo rancore l'ho riflessa verso di me, no, più che verso l'esterno, ossia verso l'esterno, perché il mio comportamento è stato un comportamento oggi definirei inaccettabile. Proprio il mio disprezzo nei confronti delle persone in generale si manifestava in ogni situazione, poteva essere dalla cameriera che ti appoggiava il piatto male davanti, o qualsiasi altra situazione nella quale io potessi infilare il mio coltello velenoso nei confronti delle persone. E questa cosa lo dico proprio con tranquillità, lo racconto, perché In realtà io ero tutto l'opposto e sono, mi considero tutto l'opposto. Poi è chiaro che tutti questi aspetti, queste piccole sfaccettature diverse da come ero io o come vedevo me stesso, in qualche maniera sono rimaste, no? Cioè, quindi oggi, questa è una banalità, sono non migliore, ma magari più completo di tutti questi aspetti. Quindi c'è la parte cattiva quando ci deve essere, c'è la parte buona quando ci deve essere. Poi è vero che io magari c'è un po', come posso dire, di tendo un po' a ecco, diciamo che a volte tendo ad essere troppo empatico. Questa è una cosa di cui ho già discusso magari con tante altre persone, alcuni anche di voi, e a volte ci sono delle figure che in qualche maniera mi catturano più empatia, no? E poi io dico, vabbè, ma a canna, no? Cioè, nel senso, io alla fine mi è capitato di, forse perché alla fine avrei voluto una figura paterna diversa da quella che ho avuto, a volte mi è capitato di essere più paterno nei confronti di alcune persone, no? Cioè, quasi essere una sorta di padre come avrei voluto, no? E questa è una cosa di cui ho già parlato, di cui magari ci è capitato poi anche di discutere con Michela, no? Perché cioè, tu alla fine dovresti essere paterno con la persona con la quale ovviamente devi essere paterno, no? Cioè, nel senso che è giusto che sia così, no? Ma la vita è complicata, ragazzi, cioè, è inutile che ve lo dico. Noi facciamo, ci troviamo a fare delle cose. Il problema è che sbagliare o fare delle cose strane o fare delle cose assurde non è di per sé un problema. Il problema è quando tu non ne prendi atto e continui ad andare avanti e fai cose e continui a fare cose che non c'hanno senso e non c'hanno motivazione, non c'hanno giustificazione e non ti poni neanche il problema, il dubbio o l'autocritica e dici sì, e beh, in effetti sono stato così, ho fatto questo e l'ho fatto male. E ci sono tante cose del mio passato di cui io posso apertamente e senza nessuna vergogna dire che delle quali mi vergogno, delle quali so di essere stato tutto quello per il quale io ho combattuto per non essere. E questo probabilmente, anche questo è un po' un riflesso che magari può capitare, cioè un momento in cui ci rifiutiamo in un momento della nostra vita talmente tanto che diventiamo quello che consideravamo il mostro, no? In qualche maniera. E quindi alla fine questa cosa mi fa riflettere sul fatto che quel periodo non mi sono solo abnegato, e qui c'è un po' di par condicio tutto sommato, a distruggere gli altri, ma mi sono abnegato profondamente a distruggere me stesso, con tutte le conseguenze psicofisiche del caso, quindi l'alcol, non solo, insomma, ragazzi, bisogna, se penso che se il grande reset è questo spazio per come l'ho voluto, dove sì, possiamo parlare pure di politica, dopo magari un attimino ne parliamo. Possiamo parlare anche del tema che avrebbe dovuto essere questa puntata. Però è anche uno spazio per me per ricordare e rendermi autoconsapevole del fatto che era così, ragazzi. Inutile negarlo. Cioè, c'è un momento della nostra vita in cui noi non siamo quello che abbiamo voluto essere o avremmo voluto essere, e della quale dobbiamo anche riflettere e vergognarci per poi poter porre rimedio. Il problema è quando poi si continua, si persiste, diciamo, verso quel cammino lì. E questa è la parte ovviamente più sbagliata da un certo punto di vista, no? Invece io sono contento, per quanto male mi possa aver fatto, per quanto male possa aver fatto, di aver fatto questi percorsi, questi tanti diversi percorsi nella mia vita, sui quali rimango volutamente generico, perché insomma, magari, ma non perché non ne voglio parlare, perché poi magari possono essere spunti da tanti piccoli capitoli. E oggi, se la mia aspirazione, come ho detto tante volte, è quello di essere un uomo migliore, ecco, io penso, con i miei difetti, con i miei limiti, con la mia forse eccessiva indulgenza, con il mio tendere a perdonare rispetto a quanto non perdonavo affatto, alla mia empatia, forse un po' troppo accentuata su determinati casi, diciamo che oggi io mi sento un uomo migliore. E so anche che c'è uno sbarramento profondo nei confronti della mia vita, nella quale il livello d'accoglienza si è interrotto da tanto tempo, perché questa è una fase della mia vita dove a 53 anni tendo più a espellere piuttosto che a includere. Ma le persone, quelle poche persone che hanno il diritto, e qui lo dico proprio con tutta quella prosopopea tipica di mio padre, le persone che hanno il diritto di entrare a far parte della mia vita sono, e io li considero, e forse dovrebbero considerarsi dei privilegiati. So che è un discorso arrogante e stronzo, però un po' è così, e questo è quello che penso di me stesso. E quindi se oggi ho il mal di gola, tutta sto pippone, è perché c'è stato un periodo nella mia vita in cui, anche quando non uscivo con gli altri, uscivo da solo e distruggevo me stesso. La strada è lunga, il sole scende, è quasi buio e non c'è proprio nessuno. Oh, la conoscevate questa canzone di Ivano Fossati? Io no, devo dire la verità. Però comunque, ragazzi, adesso torniamo con un intervento di Samoa, anche detto Radio Anziano. Sei su Runtime Radio, la talk radio geek. www.runtimeradio.it. Vieni a scoprire la Radio Geek. Ciao, sono quel tizio di quell'altra radio. Io credo di avere un problema con il discorso del pianto. Quando ero un ragazzino mi capitava abbastanza spesso, poi penso di aver subito / accettato e assorbito svariati traumi che mi hanno un po' dissociato, e ho sviluppato questa forma di barriera fra me e la realtà, per cui praticamente non piango mai. Mi capita un pochettino ogni tanto di soffrire internamente, anche un bel po', ma non lo faccio trasparire all'esterno, anzi spesso non si direbbe affatto. E se qualcuno ascolta il mio piccolo podcast qui su Runtime Radio saprà di cosa parlo. Però devo dire che ogni tanto ci sta piangere, solo che bisogna anche riuscirci e lasciarsi andare per tutto e mollare, diciamo, il controllo, cosa che non è affatto semplice. Per cui è un rapporto abbastanza conflittuale il mio con il pianto, e ogni tanto dovrò sforzarmi di farlo, che vi posso dire. Un abbraccio, e mi raccomando, seguite questo ragazzo Simone Pizzi, che forse è ancora un po' acerbo, forse è ancora molto da dire, anzi sicuramente si farà, e ha molto da dare al mondo e al mondo della radiofonia tutta. Ciao. Il ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, quest'altr'anno giocherà con la maglia numero 7, diceva qualcuno. Grazie Samuel. Allora, questo è un discorso un po' particolare, perché capisco, comprendo un po' quello che è l'intervento di Samuel. Anch'io per tantissimi anni della mia vita, anzi per un buon 70% della mia vita, a parte quando ero bambino ovviamente, che piangevo sempre, ero capriccioso e viziato, quindi vabbè, un altro discorso. Però insomma, per una buona parte della mia vita da adulto io non ho pianto, non piangevo, e questo è un riflesso di tante cose. Perché a volte quando io mi trovo a fare conversazioni su questi temi, sento dire persone: ah, ma io di indole so così, ah, ma io di indole so colà. Il problema è che l'indole è una parte, ma c'è anche un'altra parte, che è quella del condizionamento, condizionamento storico e culturale da parte di una società che ti dice, ti cresce, un po' come doveva essere il titolo della puntata, sei grande ormai, sei un uomo ormai. Ma sei grande perché sei grande è più generico e omnicomprensivo. Sei un uomo ormai, sei un ometto ormai, gli ometti non piangono. E questa cosa comunque in qualche maniera ci è rimasta in testa, no? Questo riflesso. Quanti riflessi della nostra cultura e subcultura hanno oramai modificato il nostro modo di pensare, e quanto una rivoluzione culturale deve lavorare per distruggere tutti questi riflessi e permettere alle persone di avere sì anche un'impronta e un'estrazione culturale, però allo stesso tempo di liberarsi da determinati meccanismi ed essere più liberi di essere quello che uno dovrebbe o vorrebbe essere, no? Questo è un discorso sempre stato interessante, perché io ci ho pensato tante volte. È cambiato qualcosa in me, come appunto dicevamo prima, e come è successo spesso nella mia vita. Io ritengo che questa costante evoluzione o trasformazione o anche involuzione di me stesso sia una sorta di fortuna da un certo punto di vista. Intanto scusate ragazzi, però non ho salutato Deborah, non ho salutato Magoslo, non ho salutato Samuel, non ho salutato Vincent Valentine, non ho salutato nemmeno Pietro che mi stava ascoltando da un'altra parte, e ovviamente anche Ruggero. Insomma ragazzi, scusate che non vi ho salutato. Comunque dicevo, che cosa è successo a un certo punto? L'ho già raccontata sta cosa, ma io la riracconto perché sapete che sono nonno, e quindi c'è stato un momento nella mia vita in cui avrei dovuto piangere, e avrei dovuto piangere tanto, perché perché era giusto così. Perché poi il pianto non è solo una debolezza, il pianto è anche una trasformazione, un modo di processare quella energia, quel dolore, quella sofferenza, quel vuoto che in qualche maniera si crea dentro di noi, e a un certo punto la esterna, la espelle, no? Però poi noi ci vergogniamo, no? Di far vedere quelle poche volte in cui io mi emozionavo, cioè avevo sempre gli occhiali che mi camuffavano anche in qualche maniera, no? E poi c'è sempre qualcuno che sta lì: ah, ma te sai che te sei commosso, no? E questa cosa ovviamente ti disturba ancora di più, crea ancora le barriere laddove tu le stai cercando di distruggere in qualche maniera. Perché piangere, secondo me, è importante. C'è stato un momento nella mia vita in cui avrei dovuto piangere e non ho pianto. Ed è il riflesso di un modo in cui io stesso sono cresciuto, indipendentemente oltre ai condizionamenti culturali che ci ho riflettuto. Ma perché io non dovevo piangere? E quanto questa cosa del sei grande, sei un ometto, sei un uomo, non devi piangere, ha condizionato il fatto che non dovessi piangere? E quanto si è amplificato, mischiandosi ovviamente ad aspetti della mia vita che erano quelli della compressione, quello del fatto che quando io dovevo affrontare delle cose avevo paura di affrontarle, avevo bisogno di trovare la forza che faceva dire: guarda sto ragazzino quanto è forte che sta affrontando sta cosa, che bravo, dà la forza a tutti noi, diceva mia madre, no? E qui io parlo delle tantissime operazioni, interventi chirurgici che ho vissuto nella mia vita da ragazzino. Quando tu puoi avere tutto il supporto che ti pare, ma quando sei lì nell'anticamera, ogni volta delle tante volte che ti ritrovi lì, sei da solo, e sei da solo, e quindi devi trovare tu il modo di affrontare quella paura. E il modo in cui io ho affrontato le paure in generale nella mia vita è stata la compressione. Io ho compresso tutto dentro di me, tutte le paure le ho chiuse dentro un buco nero così denso, così compatto, così incredibilmente denso che era diventata una sorta di singolarità. Tutto quello che navigava intorno a questo buco nero, ed è una metafora proprio importante, veniva risucchiato, tutto veniva compresso. E quindi la paura in particolare, che era il motivo per cui io facevo questo, veniva risucchiata, ma a volte veniva risucchiato anche un po' tutto il resto. Però che bravo questo bambino che era, vedi, ah, come affronta, ci dà la forza a tutti. Ma io non lo sto dicendo con la critica, io a mia madre abbiamo affrontato un percorso della vita veramente che è stato un calvario da un certo punto di vista. Abbiamo camminato sul fuoco, l'abbiamo fatto insieme, mano per mano, e l'abbiamo fatto con l'orgoglio e la dignità di due persone che sapevano che dovevano farlo e che era inutile rifiutarsi, lo dovevano fare. E questa cosa comunque in qualche maniera mi ha aiutato, perché sono cresciuto con la saggezza, la maturità a un'età magari forse meno sospetta, però in realtà era anche un po' una parte della medaglia. L'altra parte della medaglia era lì dentro compressa e urlava e gridava e piangeva e c'aveva paura. E questa è la cosa che a un certo punto mi ha portato a quel giorno in cui avrei dovuto piangere e che non ho pianto. E ho pianto 15 anni dopo di fronte a una stupidaggine, una scena di un film che era la più stupida del mondo, che era la meno significativa, forse la meno emozionante, e io mi sono trovato a piangere come non ho mai pianto in tutta la mia vita. Ed era il momento in cui quel buco nero in qualche maniera stava evaporando, e queste emozioni che erano lì rimaste compresse per tutta una vita erano esplose e stavano esplodendo, e a quel punto le dovevo subito controllare per non sembrare un pazzo, perché altrimenti sarei potuto tranquillamente sembrare un pazzo. Ecco, la storia del nostro modo di piangere in quanto uomini, in quanto maschi, è una storia complicata. Come tutte le storie che distinguono la cultura e la subcultura degli uomini e delle donne in questo mondo, in particolare in questo paese, quello del piangere è forse un aspetto importante per noi, perché lo dobbiamo guardare, lo dobbiamo affrontare. E dobbiamo capire che quella volta che non abbiamo pianto non è solo una questione di indole, ma è una questione di percorso, di cultura, di imposizioni e poi magari anche, nel mio caso perlomeno, di scelte nel momento in cui ci si è trovati da soli di fronte all'uomo nero e non si sapeva in che maniera bisognava comportarci. E va bene ragazzi, io direi che per oggi è tutto. Vi ricordo prima di tutto di seguire il canale broadcast di Telegram di Runtime Radio, dove lo trovate tranquillamente su t.me/Runtime Radio. Non è una chat, quello è un canale broadcast dove escono tutte le notizie relative a Runtime Radio, diventerà il punto di riferimento. Anche sul sito ufficiale di Runtime Radio verrà completamente smantellato tutto l'impianto news che stavamo costruendo, ma che poi alla fine ci costa tempo e fatica. In realtà lo stream del canale Runtime diventerà l'elemento ufficiale, diciamo così, e questa è una cosa importante da questo punto di vista. E soprattutto vi ricordo anche che c'è Dirette Runtime sempre su Telegram, dove potete tranquillamente chiacchierare insieme a noi e farci due risate. Tra l'altro mi sa che la canzone l'avete sentita un po' bassa, perché non mi sono scordato di alzare il cursore, ma chi se ne frega, tanto è guacchia. No, scherzo, dai, è bellissimo. Tutto bello, la musica che mettiamo noi di Runtime Radio è tutta bella. Quindi, vabbè, Dirette Runtime, Runtime Radio, ovviamente su Telegram li trovate, e lì ci sono ovviamente tutti i nostri riferimenti, tutte le nostre informazioni, e soprattutto potete chattare con noi, dello staff e altri ascoltatori e amici. Anche durante il periodo in cui non ci sono dirette, potete tranquillamente stare lì a chiacchierare dei gassi vostri senza nessunissimo problema. Vi ricordo che questa sera c'è la puntata di Runtime by Night con l'ospite in studio, non ve la perdete. Vi ricordo anche, insomma, tutti i progetti nuovi che stanno iniziando a nascere. Vi do subito, insomma, dopo la sigla, vi dico subito che ci sarà un piccolo esperimento sempre di questi podcast fatti con l'intelligenza artificiale che sto facendo per vedere dove possono arrivare. C'è una cosa di 7 minuti che vi faccio ascoltare sulla caduta della democrazia negli Stati Uniti d'America, perché tutti facciamo finta di niente, ma quello che è successo negli Stati Uniti d'America ne torneremo a parlare magari nelle prossime puntate, ma in realtà è praticamente proprio la cancellazione della democrazia. La democrazia in America non esiste più, ragazzi, è un dato di fatto. Questo è un declino pericoloso, perché, come dico io da anni, secondo me questo è un disegno generale a livello internazionale per il ritorno di oligarchie veramente brutte e pericolose. Questo è un dato di fatto. Ma subito dopo, sempre seguendo un po' la live, c'è la prima puntata di Armonia, ve la trasmettiamo per la prima volta qui sulla radio. Poi da lunedì prossimo ci sarà una programmazione più strutturata sulla radio e forse ci sarà l'aggiornamento anche del sito di Runtime Radio, che aveva bisogno di alcune sistemazioni, insomma. Poi mi scrivono: guarda, c'è questo, guarda, c'è quell'altro, e allora fatemi fare, non esce il tempo di fa tutto, perché nel frattempo sono arrivato alla 9.7.6 di The Safe Place. Il gioco è completo, ora sto debuggando tutto, perché, ragazzi, è un delirio quel gioco. Quando lo giocherete mi direte: ma 4 mesi per sta cagata? E io vi dirò: sì, 4 mesi per sta cagata, perché ho ricominciato 3 volte, perché ho imparato nel frattempo. E ieri sera, così per giocare, mi sono messo a fare una cosa che mi ha fatto capire che ho imparato talmente tanto che ci avrei potuto mettere un terzo del tempo, perché ieri sera ho sviluppato un prototipo, diciamo, che potrebbe essere il seguito di The Safe Place, o addirittura un'altra storia fantasy, un gioco di ruolo molto più tradizionale, che lo guardo e dico: ma quanto è bello sto coso, ma che cazzo ho fatto? Vabbè, ragazzi, buon fine settimana a tutti, buon venerdì e poi un fine settimana a tutti. Questa sera Runtime by Night, ore 22:30, sempre runtimeradio.it, runtimeradio.com. da Simone Pizzi è tutto, ciao e buonanotte. Simone Pizzi, il grande reset, un dialogo sincero per costruire insieme un futuro più vero. Unirsi per il cambiamento, lottare per un mondo migliore, ascoltarsi e confrontarsi con mente aperta e cuore. Runtime Radio, la voce del progresso, Simone Pizzi ti aspetta per un nuovo inizio. Unirsi per